Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, in attesa arrivino notizie dall'incontro tra il governo, le parti sociali, sindacati, Confindustria, Rete Imprese per l'Italia, la riforma del mercato del lavoro. Oggi è presente anche, oltre al ministro Fornero, anche il presidente del Consiglio Mario Monti. Non è arrivato molto, devo dire, questa mattina agli incontri tecnici. Vi dico subito che la CGIL, dalla segreteria della CGIL, è traperata un'indicazione all'esecutivo: ha solo manifestato l'intenzione di manomissione dell'articolo 18. E non sarebbe un accordo, l'obiettivo del governo non è un accordo positivo, ma i licenziamenti facili. Quindi molto dura la posizione della CGIL. Anche la Confindustria, il direttore generale Giampaolo Galli, al termine della riunione sulla riforma del mercato del lavoro di questa mattina, ha detto: dal tavolo tecnico che si è tenuto al Ministero del Lavoro non ci sono state risposte positive, ma su alcuni punti importanti ci stanno pensando. Più positivo invece il presidente di Rete Imprese per l'Italia, quindi Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, che ha detto: siamo più vicini, non alla fine, ma più vicini. In attesa di avere notizie sul fronte mercato, riforma del mercato del lavoro, partiremo in apertura con un tema che riguarda un caso simbolo di come si possono buttare via i soldi in questo paese. Molti di voi ci scrivono: oltre alla lotta all'evasione, anche la riduzione della spesa pubblica o la riduzione degli sprechi della spesa pubblica. Avete ragione, il caso l'avevo annunciato ieri, quello ormai famoso del ponte di Calatrava a Venezia, su cui la Corte dei Conti ha indagato, oltre che l'archistar, l'architetto Calatrava, anche altri 6 tecnici del Comune. Ci arriviamo in apertura. Però per quello che riguarda altri temi, il disegno di legge fiscale, avremo oggi ospite alcuni, dovremmo riuscire a farcela se non ci sarà la votazione, alcuni dei parlamentari che hanno proposto emendamenti, tra cui quello per esempio per eliminare la cosiddetta blacklist, la lista nera dei commercianti che non vengono segnalati perché non danno gli scontrini. Nel disegno di legge era previsto che questa lista venisse poi utilizzata dall'Agenzia delle Entrate per fare controlli. E il governo ha chiesto la fiducia sul disegno di legge sulle liberalizzazioni e la Commissione di bilancio della Camera ha promosso il decreto liberalizzazioni, nonostante la Ragioneria Generale dello Stato abbia rinvenuto almeno 5 norme prive di copertura di bilancio. La Commissione ha comunque preso atto dei chiarimenti forniti dal governo e ha dato parere favorevole al decreto, ma restano i dubbi della Ragioneria Generale dello Stato, perché ci sarebbero alcune norme non coperte. Nel caso specifico, l'istituto delle compensazioni per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e quelle relative alla permuta di immobili. Per quello che riguarda il voto di fiducia, arriverà domani e giovedì sera l'ok finale. Ancora sulla crisi è intervenuto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Al Quirinale ha sottolineato che il 2012 sarà un anno difficile, e oggi l'Istat ha fatto sapere che nei primi 3 mesi dell'anno l'Italia non è andata bene. Qui ci si attende un calo del PIL tra l'1,5% e il 2%, ci mancherebbe. Ha detto Giovannini, presidente dell'Istat, che il calo già acquisito nel 2012 è di uno 0,5%, cioè se il PIL poi facesse 0 finiremo l'anno comunque con un meno 0,5%. Dicevo, il Presidente della Repubblica ha detto: attenzione, sarà un anno difficile per la nostra economia, non si può tornare indietro dal sentiero virtuoso che è stato intrapreso. I tagli di bilancio hanno delle conseguenze di carattere recessivo sull'economia e bisogna quindi nello stesso tempo porci in modo serio il problema di politiche volte alla crescita delle nostre economie, anche sotto il profilo dell'occupazione e in special modo dell'occupazione dei giovani. Queste politiche richiedono anche però uno sviluppo conseguente del mercato unico europeo e in questo senso l'Italia sta cercando di dare un contributo, anche grazie al fatto che il Presidente del Consiglio italiano è stato tra i più convinti sostenitori della necessità di uno sviluppo e di un approfondimento conseguente del mercato unico. In questo senso aveva anche in una diversa veste, non da uomo di governo, elaborato un importante rapporto per il Presidente della Commissione europea che poi fu trasformato in un vero e proprio atto comunitario. Quindi questo è l'orizzonte in cui ci muoviamo, sapendo che il 2012 già è e sarà un anno difficile per le nostre economie. Re Giorgio, come l'ha battezzata una famosa e premiata copertina dell'Espresso. Allora, la borsa come va? Negativa a Milano come le altre borse europee, devo dire, anzi meglio di altre borse europee. Parigi meno 1,20, Francoforte meno 1,20, Londra meno 1%, l'America mezzo punto percentuale di calo, Milano perde lo 0,80%, male Tenaris, Buzzi, Unicem e Fiat che perdono il 3,5%, Prismian meno 2,5%, Exor meno 2,20%, Finmeccanica meno 2% come Generali e Fiat Industrial, l'1,80% lo perde UbiBanca ma anche Ferragamo e Pirelli. Bene, invece Telecom Italia più 3,44%, di Assori in più 2,91%, l'Automatica più 2,70%, Terna più 1,80%, A2A più 1%. Il petrolio è in leggero calo a 106,2 dollari al barile dopo l'intervento dell'Arabia Saudita, che ha anticipato l'intervento per raffreddare le quotazioni, anche perché insomma le minacce britanniche e americane di usare le riserve se continuano questi prezzi del petrolio si fanno sentire. Il Brent a Londra vale 123,9 dollari e il WTI a New York 106,2 dollari. Però gli effetti del caro benzina si faranno caro petrolio si faranno sentire per le compagnie aeree nel 2012. Secondo le previsioni della IATA, che è l'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, quest'anno l'industria del trasporto aereo registrerà utili per 3 miliardi di dollari, più che dimezzati rispetto agli 8 miliardi del 2011, complessivamente date le compagnie petrolifere, perché i margini vengono erosi dal prezzo del carburante. E poi la Grecia, che è riuscita a collocare 1,3 miliardi di titoli a tre mesi, di bot a tre mesi, con dei tassi in calo, tasso del 4,25%, richieste alte, 2,6 miliardi, 2,7 volte superiori alle offerte. Invece la virtuosissima Olanda, quella che ha sempre appoggiato la Germania nel rigore, nella punizione per la Grecia, che a nostro avviso ha rasentato, e anche nel caso portoghese l'umiliazione, non solo la punizione. Dicevo, la virtuosissima Olanda però ha qualche problema, perché nel 2013 il deficit arriverà al 4,6%, e non solo al 4,5%. E se il governo di Rutte vorrà mantenere l'impegno di rientrare all'obiettivo del 3% del deficit, deve fare una manovra da 10 miliardi di euro di tagli. Se bisogna essere rigorosi con tutti, bisogna essere rigorosi anche con l'Olanda, Allora parleremo dopo anche di alcune notizie che riguardano questa crisi. È una cosa bellissima che riguarda Salvatore Ligresti, la sua galassia è sommersa dai debiti, ma lui è riuscito a farsi dare tra il 2003 e il 2010 40 milioni di euro proprio da Fondiaria Sai e da Milano Assicurazioni, con la veste di consulente, cioè consulente della società di cui era proprietario. Bellissima. Però adesso invece vorrei raccontare un caso che a mio avviso è paradigmatico, per usare un termine alto, è emblematico di cosa voglia dire la spesa della pubblica amministrazione quando facciamo infrastrutture in questo paese. Ed è un caso a cui accennavamo già ieri, anche perché su questo è intervenuta la Corte dei Conti. Come triste Venezia, soltanto un anno dopo. Come triste Venezia, se non si ama più. È triste Venezia per la Corte dei Conti soprattutto, e per questo benedetto, maledetto ponte di Calatrava. È triste anche per l'architetto, l'archistar Santiago Calatrava, ma anche sei tecnici del Comune di Venezia. come triste Venezia. La Corte dei Conti ha infatti chiesto, come spiegavamo anche ieri, i danni all'architetto spagnolo e ai sei tecnici per i ritardi, i costi e gli errori commessi nella realizzazione di quello che è il quarto ponte sul Canal Grande a Venezia, cioè il ponte della ferrovia, il famoso ponte di Rialto, il ponte dell'Accademia. Il quarto ponte è quello appunto che collega sostanzialmente la sponda del Canal Grande lato Piazzale Roma, per chi conosce Venezia, con la ferrovia, creando anche un grosso beneficio nello spostamento tra ferrovia e Piazzale Roma. Se non si ama più. Dopo un'inchiesta durata 7 anni, la Procura Generale Contabile ha infatti quantificato in 3 milioni e 500 mila euro il danno complessivo causato da difetti di progettazione dell'opera e da lacune nella gara d'appalto. A sostegno della sua accusa, il procuratore regionale della Corte dei Conti, Carmine Scarano, ha citato 4 consulenze tecniche concordanti, di cui una dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Adesso Calatrava, l'archistar Calatrava e i 6 tecnici hanno 90 giorni di tempo per presentare la memoria difensiva. Scaduto il termine, la procura contabile potrà o rinviare a giudizio gli indagati oppure decidere l'archiviazione. La storia di questo ponte è una storia abbastanza travagliata, perché nel 1996 l'architetto Calatrava dona al Comune di Venezia lo studio di fattibilità del ponte. Nel 99 si passa all'incarico ufficiale per la progettazione definitiva, nel 2001 la gara, nel 2007 cominciano i lavori di posa in opera del manufatto, l'11 settembre 2008 l'inaugurazione e nei 20 giorni successivi, ma qui appartiene più alla cronaca, una decina di feriti, il ponte scivoloso, i gradini accusano i veneziani sono troppo bassi e distanti, poco illuminati, poi si è posto un po' di rimedio, non c'era una struttura per le persone diversamente abili, ma insomma non è questo che interessa la Corte dei Conti, interessa il fatto che i costi dell'opera siano lievitati in maniera oggettivamente impressionante, dai 3 milioni 800 mila euro preventivati si sale nel 2001 a 6 milioni e 700 mila euro, ma quando il ponte viene finalmente inaugurato è costato 11 milioni e 200 mila euro, quindi nel 2008. Soltanto un anno dopo. E la Corte dei Conti ha precisato che nessuna imputazione chiamerebbe a rispondere gli amministratori politici, cioè dal sindaco di allora in poi. In una vicenda tecnica, ha detto la Corte dei Conti, era infatti logico fidarsi di un grande architetto. Le accuse però sono pesanti, perché c'è stato un oggettivo e sconsiderato aumento dei costi rispetto agli oneri inizialmente preventivati, un costante e spropositato esborso economico, una macroscopica approssimazione e diffusa incapacità sfociata, l'accusa quindi è in primo luogo all'architetto, sfociata in un imbarazzante quanto stupefacente insieme di errori. Continuo leggendo la Corte dei Conti, un'incapacità tecnica e una leggerezza nell'uso del denaro pubblico. C'è stato un costante monitoraggio della realizzazione del ponte che è costata quasi 400 mila euro in 3 anni. Pensate, solo perché per il disegno di questo ponte, che è un disegno molto bello, almeno secondo me, Calatrava è sicuramente un grande architetto, però il difetto di progettazione per cui il ponte, che è un arco ribassato, spinge sulle rive su cui poggia, se il lasco supera i 4 centimetri la struttura rischia di collassare. Allora, praticamente nel 2001 l'ingegner Creazza, quando viene alla luce il problema, suggerisce a Calatrava di risolvere la questione tenendo in asse il ponte con un tirante subacqueo. Questo accorgimento, però, secondo il procuratore Scarano, non fa altro che incrementare il costo dei lavori senza risolvere il problema tecnico. Da lì appunto il monitoraggio costante e l'accusa che le spese di manutenzione rappresentino un danno erariale. Allora, sindaco di Venezia, in uno dei periodi principali, cioè dal 93 al 2000, prima e dal 2005 al 2010, era Massimo Cacciari, che è in collegamento con noi. Buonasera, professore. Buonasera. Ho chiarito che la Corte dei Conti non imputa nulla a lei come sindaco e la parte politica, infatti chiama appunto i 6 tecnici del comune di Venezia, ma il motivo per cui l'abbiamo cercata è per le sue dichiarazioni quando la Corte dei Conti appunto ha aperto questa indagine. Mi dispiace, perché sarei andato volentieri, anzi chiederò espressamente di essere sentito se vi sarà un dibattimento in qualsiasi veste, perché sono del tutto solidale con i tecnici che sono stati che sono stati chiamati in causa dalla Corte dei Conti. Cioè lei vorrebbe essere indagato? Esprimo a questi tecnici non solo solidarietà, simpatia, stima, perché si tratta di persone di altissimo profilo professionale a partire da Calatrava. E quindi ci terrei appunto ad avere il tempo necessario per spiegare alla Corte dei Conti di cosa si tratta. Quindi lei vorrebbe essere indagato? Diciamo. Ah, sarei felicissimo, assolutamente nessun problema. È mio costume assumermi tutte le responsabilità anche quando non ce le ho, figuri lei. Allora, vediamo specifico che io al momento della messa in gara dell'opera non ero un sindaco, nel 2001. Ecco, quindi, ma comunque non me ne frega niente, voglio dire, insomma, si tratta di, ecco, se volete, se ho un po' di tempo vi spiego come stanno le cose. Ecco, andiamo con le domande. Lei ha detto, la Corte dei Conti dove vive? Fuori dal mondo. Si sapeva che questi conti non potevano reggere, ma soprattutto con questa normativa le opere pubbliche in Italia non si possono fare. Ma cosa vuol dire? Io vi spiego subito. Noi abbiamo un grande architetto che regala al Comune di Venezia un grande progetto. Il ponte è praticamente un'opera unica, cioè si tratta di una struttura che non ha l'eguale. E Calatrava progetta questa, diciamola così, tra virgolette, opera d'arte, cioè è un unicum. Non si tratta di un ponte in serie. No, chiaro. Non è chiaro niente, perché questo non è assolutamente specificato dalla Corte dei Conti da nessuna parte. Bene, in base alle normative, il Comune di Venezia, in questo caso non io, perché la gara non l'ho indetta io, ma non importa, fa lo stesso. Il Comune di Venezia è costretto, come qualsiasi altro comune, a prendere quest'opera di questo grande architetto e fare una gara che ha una regola fondamentale nel nostro paese, qualunque sia l'opera che va a gara, il massimo ribasso. Il massimo ribasso, certo. Quando viene assegnata quest'opera, le sarei grato se si volesse informare da dove vuole, quando viene assegnata quest'opera, quando viene conclusa la gara, vince un signore sulla base di un'offerta che al momento dell'aggiudicazione non poteva servire neanche a coprire i costi delle materie prime. Quindi 3 milioni, i 3 milioni e 8 con cui è stata vinta la gara? Erano assolutamente risibili, non solo, ma viene fatta una gara, e qui forse c'è un errore, viene indotta una gara in cui non vengono chieste nemmeno delle specifiche per la ditta che sarebbe aggiudicata il lavoro, delle specifiche tenendo conto delle caratteristiche del ponte, per cui vince un signore, una impresa, che non aveva mai fatto, e non sarebbe neanche corretto farlo perché è fallita nel frattempo, perché non aveva mai fatto un ponte in acciaio in vita sua, non solo di Calatrava, ma in acciaio. A quel punto subentra il sottoscritto nel 2005, che è quello che ha condotto a termine l'opera. Erano stati già spesi un sacco di soldi, di progettazione, di questo, di quest'altro, di controllo, eccetera, eccetera, e io avevo l'obbligo, il dovere, e lo rifarei, di portare a compimento l'opera a tutti i costi, perché sennò si sarebbe perso tutto, si sarebbero persi 3 milioni e mezzo iniziali, eccetera, eccetera. E si va avanti a varianti su varianti, come succede tranquillamente in Italia ogni volta che si vuole fare un'opera eccezionale, perché o fai semplicemente appunto la manutenzione di marciapiedi, eccetera, eccetera, e te ne fotti della qualità delle opere, cosa impossibile a Venezia, ma che dovrebbe essere impossibile in qualsiasi parte d'Italia, oppure cerchi di fare opere di eccellenza. Se fai opere d'eccellenza, sia in una città sia a casa tua, devi andare in cerca di operatori eccellenti, come è stato fatto a Venezia nello stesso periodo per la punta della dogana, dove c'era il privato che si è chiamato Tadao Ando, altro grande architetto, ma non con Tadao Ando un'impresa X qualsiasi libera a piacere, ma la migliore impresa che costa un po' di più delle altre, ma ti garantisce il lavoro quando si tratta di un lavoro di qualità. In Italia questo è impossibile da fare per una pubblica amministrazione, perché le pubbliche amministrazioni in Italia sono ritenute a priori delinquenti e quindi loro, capisce, non posso, non posso io come sindaco andare in cerca di uno che mi realizza il ponte di Calatrava, e andare in cerca di quello che mi offre, che mi fa l'offerta più bassa economicamente. In questo caso l'offerta era ridicola, e lo può verificare dove vuole, e quindi siamo andati avanti a varianti. L'impresa è fallita, l'impresa era costantemente sul procinto di fallire, ha dato in subappalto una serie di lavori delicatissimi, subappalto fallimentare, perché ci sono arrivati dei lavori che erano assolutamente che erano impossibili, che erano impraticabili, rifai i lavori, e si è arrivati appunto a questa demenziale, a questo enorme aumento del costo previsto che era assolutamente insostenibile. Dopodiché probabilmente gli 11 milioni finali sarebbero stati troppi, ma siamo andati avanti appunto nelle condizioni che le ho detto. Se fosse stato possibile partire subito con un appalto ben mirato di cui poteva risultare vincitore soltanto un'impresa veramente qualificata e con un preventivo di spesa realistico, probabilmente si sarebbe finito prima e si sarebbe finito spendendo meno. Allora, ma questo due, è impossibile. Due domande. La prima, quindi però dipende chi fa il bando di gara. Lei ha detto non c'erano nemmeno le specifiche, per cui ha vinto l'impresa che ha offerto di meno, pur sapendo che qualunque esperto che quei 3 milioni e 8 erano irrealistici. Tra l'altro un'impresa impreparata, perché non aveva mai realizzato un ponte nemmeno di altro genere. Non aveva mai realizzato un ponte in acciaio. In acciaio in vita sua. Ok. Domanda, il bando di gara però lo scrive l'amministrazione comunale, cioè le specifiche le deve mettere l'amministrazione comunale. Lì c'è stato probabilmente un errore. Ah, ecco. Perché poi un errore da qualche parte c'è stato, perché se tu metti le specifiche fatte bene, escludi, pur mantenendo il principio del massimo ribasso, ma escludi. Forse la Corte dei Conti dovrebbe rivolgersi allora all'amministrazione comunale del tempo, cioè a chi ha fatto il bando di gara. Comunale del tempo. Senta l'amministrazione comunale, e se fosse, ripeto, se fosse stato sempre dietro sarebbe stata la stessa cosa, perché non posso mica sapere io quanto costa il ferro. Dico nelle specifiche, nell'avere fatto le specifiche così blande. Ma le specifiche c'erano tutte, soltanto che si è andati in appalto con una certa cifra e ha vinto quell'impresa che ha fatto il massimo ribasso. E se io sindaco non assegno un lavoro dopo una gara a quello che mi fa il massimo ribasso, ma allora altro che Corte dei Conti mi salta fuori in questo paese. Il giorno dopo i giornali mi hanno detto: ma come, hai segnato una cosa che per 10 quando c'era uno che però mi scusi, no, ma Cacciari, io non ho capito una cosa, però se però le specifiche di un bando sono molto più dettagliate, si può mantenere il principio del massimo ribasso, ma escludere, per esempio, chi non so, uno, esiste la specifica. E infatti, cioè, aveste chiesto l'amministrazione comunale di allora, non so, chi ha già realizzato opere simili, magari escludevate quella ditta, o no? Erano assai incerti, assai indefiniti esattamente questi aspetti. Detto questo, che non lo dico ora, che lo dissi il giorno dopo che sono diventato sindaco nel 2005, e che mi sono trovato sta patata bollente da dover portare a termine. Detto questo, so benissimo come avvengono, qualsiasi persona che fa il sindaco sa benissimo come avvengono queste situazioni, un ponte di quel genere che suscitava polemica non finire anche allora, eccetera, eccetera. Se ci fosse andato ad una assegnazione della gara, ad un'impresa che dava maggiori garanzie, eccetera, eccetera, che probabilmente può darsi benissimo che abbia anche partecipato un'impresa di questo genere a questa gara, e che però veniva assegnata ad un'altra che offriva magari 1-2 milioni in meno, sarebbe stato un casino politico inenarrabile. So benissimo come vanno le cose. Allora, Cacciari, resti con noi, perché adesso la borsa ha chiuso -1%, poi ce ne occupiamo, così come ci occuperemo dell'incontro governo, parti sociali, Confindustria, Rete Imprese per l'Italia, sulla modifica della norma sul mercato del lavoro. Però, a mio avviso, parlare poi concretamente di questi esempi fa capire molto di più su come funzionano lo spreco anche di denaro pubblico e di tanti rapporti della Corte dei Conti, di tanti dati aggregati. C'è qualcosa che non mi convince nel suo ragionamento, ne parliamo dopo il meteo. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, poi arriviamo, dicevo, alla borsa e alla riforma del mercato del lavoro. Vorrei concludere l'intervista con Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia. Lo abbiamo ricordato, l'oggetto è la Corte dei Conti che ha chiesto i danni all'architetto spagnolo Calatrave a 6 tecnici del Comune di Venezia per i ritardi, i costi, gli errori commessi nella realizzazione del quarto ponte sul Canal Grande, quello che si chiama comunemente il ponte di Calatrava. Cacciari, lei ha detto, insomma, attenzione, è così che funziona, ma noi non è che possiamo rassegnarci all'idea che l'amministrazione comunale appalti un'opera del genere a chi la sa fare peggio, perché la regola è quella del minimo, del massimo ribasso, a parte che molti ascoltatori al 349-238-6666 contestano questo, cioè uno magari nel bando di gara mette delle clausole che permettono di escludere la ditta, per esempio, che l'ha vinto la prima volta, perché poi se no dobbiamo rassegnarci l'idea che siccome la ditta lo fa al massimo ribasso, lo fa male, poi tutte le varianti fanno esplodere i costi, da 3,8 milioni si arriva agli 11 milioni finali. Non è che possiamo rassegnarci a sta roba, no? Dovete rassegnarvi, e in questo paese, con queste normative sui lavori pubblici, a queste cose, dovete rassegnarvi. Io adesso me ne foto perché non mi interessa più assolutamente nulla di questa amministrazione, ma vi assicuro che dopo 15 anni, sono leggete in un libretto di uno che era mio e che si intendeva di queste cose, che fu mio vice sindaco all'epoca del disastro della Fenice. E la Fenice è la stessa cosa. Si partì, si assegnarono i lavori in base a determinate regole, si iniziarono i lavori, dopodiché l'impresa che era risultata seconda, in base a cavilli tutti possibili sulla base delle normative attuali di lavori pubblici, bloccò i lavori che era già iniziato, partì lei, ritardi, spese, eccetera, eccetera, fallì. A un certo momento questa impresa non era più in grado di portare avanti i lavori e si ritornò all'impresa di prima. Quindi o si cambiano le normative sui lavori pubblici, oppure con la situazione attuale, ma saremo bloccatissimi. Ma se però, due cose però. E comunque non riusciremo mai a fare dei lavori di eccellenza, mai. No, allora, ho capito benissimo il suo punto, Cacciari, però due cose. La Corte dei Conti obietta che quando nel 2001 l'ingegner Creazza ha suggerito a Calatrava di risolvere la questione tenendo in... cioè c'era anche un errore nel disegno di Calatrava, da quello che capiamo con la Corte dei Conti, perché se c'era un arco ribassato che spingeva su due rive con un lasco superiore ai 4 cm, il ponte collassava, e tra l'altro questo tirante subacqueo è costato... cioè il monitoraggio del tirante subacqueo è costato 400.000 euro in 3 anni. Un altro delle esperienze, ero molto amico di Calatrava e quindi di Calatrava anche di Creazza, che siamo stati colleghi d'architettura per anni. Un'altra delle cose che soprattutto a Venezia siamo maestri, e tanto è vero che a Venezia praticamente le uniche architetture contemporanee sono qualcosa di scarpa, e adesso durante il mio ultimo mandato Calatrava e Tadao Ando, basta. Mentre potevamo avere le Corbusier, Canne, Wright, chi più ne metta, una delle caratteristiche di Venezia è quando un grande architetto viene chiamato, si scatenano gli architetti locali. Questa è una delle caratteristiche di questa città. Quindi tutti diventano maestri improvvisamente. Vabbè, però qui c'è una accusa. Calatrava ha fatto ponti dappertutto. Mi rifiuto di pensare che Calatrava abbia sbagliato qualcosa nel progetto. Comunque, si è sbagliato qualcosa nel progetto. Ma quindi è Creazza che gli ha suggerito male? No, non lo so, cosa vuoi che possa io indicare di una questione? Cacciari, era sindaco lei. Comunque, veniamo all'ultima parte che mi interessa di più. Lei dice, in questo modo è impossibile fare opere di eccellenza, che vanno anche fatte. Allora io le chiedo, siccome il principio del massimo ribasso è un principio che nasce anche, diciamo, dopo Tangentopoli, cioè la discrezionalità totale delle volte ha portato a costi molto alti nelle opere pubbliche. Come si riesce, secondo lei, e sulla base della sua esperienza, a tenere assieme l'obiettivo di avere non la discrezionalità totale, perché poi purtroppo lei magari avrebbe scelto la ditta più brava e professionalmente preparata, ma in molte altre amministrazioni poi si sceglie la ditta del cognato, della suocera, dell'amico. Allora, come si tiene il principio del massimo ribasso con un principio in cui tu vai a selezionare però il migliore che ti faccia pagare il meno possibile, per esempio con dei bandi fatti bene, chiedo, con dei bandi di gara? Ripeto, quello che ho detto varie volte in passato. Certamente nel bando ci sono state delle incertezze, ci sono state delle insicurezze, ci sono state delle possibili disattenzioni. Il bando poteva, a mio modestissimo avviso, essere fatto meglio, mentre è chiaro, spero che sia chiaro, che non è che un sindaco possa giudicare dal punto di vista costruttivo un ponte di Calatrava, un ponte di Creazza. Speriamo che questo non si pretenda questo. Io vado a vedere, perché sennò insegnerei scienza delle costruzioni, no? Allora sono i tecnici che devono valutare il progetto. I tecnici del comune hanno valutato dal punto di vista tecnico il progetto e l'hanno valutato e hanno dato un parere assolutamente positivo, tutti quelli che l'hanno valutato, sia dal punto di vista strutturale, eccetera, eccetera. Ecco. Punto. Che cosa si può fare? Si può fare, certo che cosa si può fare? Si può fare una normativa che lasci, ma non dico arbitrio, ma certamente maggiore libertà ad un'amministrazione comunale nel approntare bandi di gara che non siano, come sono adesso, la prego di credermi, come sono adesso, strettamente vincolati ad una priorità fondamentale, il risparmio economico. Perché un mio tecnico non mi firma, non mi firmerà mai, sono loro che firmano, sono responsabili, purtroppo per loro, in questi casi, non mi firmerà mai una delibera nella quale io assegno un lavoro a quella impresa perché la ritengo più efficace, più migliore da tutti i punti di vista, più capitalizzata, tutto quello che vuole, se c'è un'altra impresa che ha i requisiti, perché i requisiti ce l'hanno praticamente tutti quando fai una gara di questo genere dal punto di vista normativo, che mi fa un'offerta straordinariamente migliore. Quindi lei dice, non esiste. Quindi dice affiancare al principio del non mi firmerà mai quella delibera, mai. Ho capito. Perché dopo ci va di mezzo lui. Allora, io adesso devo dare il traffico e poi abbiamo anche la borsa, Cacciari, però una cosa nel finale me la deve dire, almeno lo scivolo, non so come si chiama in linguaggio tecnico, per le persone diversamente abili, che quel ponte non aveva, al di là di tutti quelli che ci sono scivolati sopra, anche questo, lei ha ammesso che qualche errore nel bando c'è stato, l'ha detto alla fine, vuole essere chiamato dalla Corte dei Conti, anche lei indagato per difendere i suoi, ma qualche errore su sto ponte è stato commesso, nemmeno lo scivolo per diversamente abili, me ne risponde a questo dopo il traffico, 349-238-6666 per gli sms. Focus Economia. Di nuovo in diretta, concludiamo con Massimo Cacciari sul ponte di Calatrava. Alcuni dicono su Facebook, ma la state tirando troppo lunga. No, guardate che a mio avviso si capisce di più da un racconto dettagliato su cosa succede nei nostri appalti, anche sull'incapacità, Cacciari, di fare un bando che sia più preciso. Io non mi rassegno all'idea che vinca solo quello più scancagnato perché ha fatto l'offerta più bassa e poi i costi da 3,8 milioni esplodono a 11,2 milioni. Però lei ha detto che bisogna affiancare al principio dei costi più bassi anche l'idea, una discrezionalità dell'amministrazione comunale, ma che a mio avviso si può realizzare solo con bandi che taglino fuori chi non ha le caratteristiche di affidabilità. Però almeno lo scivolo per i diversamente abili, manco quello era pensato quando è stato fatto il ponte. Sì, no? Sì, lo so, allora, lei non so se conosce Venezia. Sono mezzo veneziano, Cacciari. Lei non sa se conosce Venezia nel senso proprio lì, di quella situazione specifica, non veneziano, si figuri. No, dico, la conosco bene. È quello. Allora, noi abbiamo ritenevamo, ancora prima del bando, io stesso avevo seguito in quella fase, era complicato realizzare, perché il ponte di Calatrava ha una certa linea, una certa struttura, eccetera, eccetera. Allora, era complicato realizzare qualcosa che per i diversamente abili, per rendere utilizzabile il ponte per i diversamente abili. Lì sotto il ponte c'è una fermata del vaporino che giunge dall'altra parte in un minuto. Sembrava logico non spendere altri 2-3 milioni per fare questa struttura, visto che lì sotto c'è un vaporino. E avevamo detto, il vaporino per i diversamente abili che parte sotto il ponte e arriva dall'altra parte, cioè alla stazione, è gratuito per tutti i diversamente abili. Ora, insomma, sono il primo Cacciari, lei lo sa che però la sera non è così, e poi insomma fare un ponte come non è così la sera? La notte con la linea notturna, se non posso annoiare gli ascoltatori, sì, ho capito, ma non ogni minuto comunque insomma, secondo me funerale. Ho capito, mi interessa invece molto il suo punto, cioè che così come stanno le cose, il vincolo del minimo ribasso rischia di far vincere imprese che poi su questo non ce la fanno, perché oppure fanno i lavori fatti male. Mi auguro, insomma, che nel caso della TAV, allora, cioè, perché vedo anche molti messaggi, non c'entra nulla, perché la TAV è un'opera di interesse nazionale, per cui non ha vincoli di carattere comunale, però insomma, tanto lei alla TAV è favorevole, no? Dura per i diversamente abili, si sta realizzando. Sì, lo so. Sì, c'è gente. Ed è un'assurdità totale, mi permetta di dirlo, un'assurdità totale, perché c'è un servizio lì sotto che praticamente funziona tutto il giorno, fuorché ogni ora oltre mezzanotte alle 6 di mattina. Vabbè, allora Cacciari, io su questo non sono d'accordo. Poi vedo molti messaggi a molti ponti che la trava non piace, alcuni sono caduti, sono scivolati, non è illuminato. Vabbè, questo rientriamo nel giudizio molto soggettivo. A me sarebbe bastato pagarlo meno, diciamo. Calatrava può piacere, può non piacere, a me bastava pagarlo meno. Grazie comunque a Massimo Cacciari, che ci conferma che lei spera che la Corte dei Conti la indaghi a sto punto. Ma lei ha idea di quanti scivolano a Venezia ogni anno sui ponti? Ho capito, Cacciari. Ma cosa crede, che scivolino solo sui ponti di Calatrava? No, però obiettivamente scivoloso se piove lo è quel ponte. Ma lei vada sul ponte di Rialto quando piove, vada sulle pietre bianche, ma per carità, dai, abbiate pietà. Vabbè, cerchiamo di dire un po' meno di cemento. Si dai, poteva fare come il ponte di Calatrava che scivola. Vabbè, insomma, è così. Comunque, lei non è mai scivolato su un ponte, non è mai scivolato. Ma per fortuna no, ma me la sta tirando, Cacciari. Spero accidenti, di no. Se no faccio... Accidenti, non è mai scivolato in vita sua su un ponte. Bravo, su un ponte no, e ne faccio tanti. Però voglio dire, io ho detto semplicemente può piacere o può non piacere. Molte obiezioni suscitato a me. Vabbè, lei dice che è solo bello. Un deficiente, quel ponte là è piaciuto a tutti coloro che se ne intendono, a tutti. Vabbè, quel ponte lì. Lasciamo in maniera democratica la possibilità che alcuni possa anche non piacere. Adesso non è che la scarpa piace a molti, magari non piace a tutti, pur essendo un grandissimo architetto a Venezia. Grazie a Massimo Cacciari, che ci conferma che lei spera che la Corte dei Conti, dicevo, la indaghi, le chieda un parere, no? Ma cosa vuole che me mi indaghino? Cosa vuole che abbia paura di no, ho detto, della Corte dei Conti? Ho chiesto conferma, lei spera che lei ha iniziato l'intervista dicendo... Certamente sì, quindi gli spero anche a loro. Grazie Massimo Cacciari. Come triste Venezia. Mi sa che se l'è presa Cacciari, vabbè. Adesso torniamo anche agli altri temi elettivi. Vedo alcuni puristi del programma che dicono: ma insomma, la borsa, adesso arriva la borsa dopo il GR. Meno 1% oggi Milano, meno 1,5% Parigi, meno 1,40% Francoforte, 349-238-6666 per gli sms. Questo è la riforma del mercato del lavoro, i prossimi temi del programma. GR prima. Focus Economia. 18:08 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Sì, Massimo Cacciari non l'ha presa con filosofia, questo possiamo dirlo, però le domande dovevamo fargliele. Allora, vedo appunto, ogni tanto sorridendo con affetto, le chiamo le vestali del programma, c'è chi dice ma non avete fatto la borsa. Allora, attenzione, sul mercato del lavoro siamo in alto mare, lo avete appena sentito, rifaremo un collegamento. Sul fronte spread abbiamo detto, e anche l'asta dei bond greci, e i rendimenti di quelli italiani, il monito di Napolitano avete sentito. Mi sembra che adesso manchi, oltre il ponte di Calatrava non ne parliamo più, vedo moltissimi messaggi sia su Facebook che al 349-238-6666, basta col tema, però è emblematico capire come si arriva da 3,8 milioni a 11,2 milioni su un ponte che poi a mio avviso qualche problema ce l'ha avuto. Borsa. Oggi negative tutte, devo dire Milano non fa peggio delle altre, perché perde l'1%, l'1,30 lo perde Parigi, l'1,40 Francoforte e l'1,20 Londra, l'America meno 0,44%, Telecom bene anche se ha ridotto il guadagno, più 2,90%, l'automatica più 2,60 come di Assori, interna più 1,60, Mediolanum più 0,80%. 80. Male invece Tenaris meno 4%, Fiat meno 3,80, Buzzi Unice meno 3,5%, Prismian meno 2,5% come Exor e Fiat Industrial, il 2,20% lo perde Pirelli, ma anche Salvatore Ferragamo, il 2% è il calo di Finmeccanica e Generali, Intesa San Paolo e Monte dei Paschi meno 1,80, Ubibanca e Azimut meno 1,60%, Credito Artigiano meno 6,32% dopo l'operazione annunciata ieri. Come sempre con Radio Colli sulle 24 ore il commento. E allora Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Fronte opposto, Telecom Italia che ha recuperato e invece abbiamo visto Tenaris perdere il 4%. Sì, esattamente, per quanto riguarda Telecom Italia diciamo che dopo una prima metà di marzo vissuta nel segno negativo ha confermato oggi il trend positivo partito attorno alla metà del mese, oggi nel giorno in cui il presidente Franco Bernabé ha annunciato che la società effettuerà 9 miliardi di investimenti in Italia tra il 2012 e il 2014, un piano di investimenti che è stato apprezzato dal mercato che si aspetta da questo, appunto, da questi investimenti sulla rete italiana dei risultati a livello di conto economico. Inoltre Bernabé è tornato ad attaccare le proposte politiche sulle ipotesi di disaggregazione dei costi dell'ultimo miglio dicendo che sono incostituzionali e che sarebbero una forma di appropriazione. È tornato con decisione quindi su questo tema, si è acceso il dibattito anche politico, insomma oggi il titolo sotto i riflettori ha guadagnato appunto il 2,93%. Devo dire che oggi è andata bene anche Terna che ha pubblicato i conti 2011, utile in calo 440 milioni, ricavi 1 miliardo e 600 milioni, il dividendo si mantiene in linea con quello dell'anno scorso, 21 centesimi per azione. Esattamente, sono andati i conti e anche il piano al 2016 soprattutto che è stato apprezzato dal mercato, le cose principali sono un EBITDA margin, quindi un margine operativo lordo superiore all'80% contro il 78% previsto dal piano precedente, se parliamo dei target al 2016 qui, e una nuova politica dei dividendi che prevede una cedola base di 19 centesimi a cui si aggiungerà un payout del 60% per quanto riguarda le attività non tradizionali, quindi il titolo oggi è salito proprio perché gli investitori hanno apprezzato queste indicazioni e avevano fatto segnare una delle migliori prestazioni del FTSE, sì, appunto in rate dell'1,58%. L'automatica più 2,60, Diasorin più 2,60, su Diasorin si era arrivati a un minimo di 19 euro per azione, adesso siamo a 21. Esattamente, diciamo che dopo un marzo in gran parte in ribasso, penalizzata dalle indicazioni sul 2012 che erano state deludenti per il mercato, il titolo sta riprendendo quota, è risalito oltre i 21, oggi appunto tra i migliori in assenza di notizie particolari, ma diciamo che molti investitori si stanno tornando a posizionare sul titolo. Volete sapere di Luxottica? Poco mosso oggi, meno 0,50%, Pirelli è cresciuto moltissimo e qualche analista ci sta, Fiat tutta debole, anche Exor. Sui migliori, tra l'altro oggi va male tutto il settore auto a livello europeo. Sì, va male tutto il settore. E Marchionne ha annunciato che tutte le aziende europee devono sottoporsi a una ristrutturazione dolorosa. Esattamente, tutto il settore auto e tutto nei prossimi due anni, sì, nei prossimi due anni, 24 mesi per ristrutturare l'auto. Ma oggi le preoccupazioni sono anche proprio su tutto il settore industriale, sono arrivate indicazioni negative dalla Cina, un rialzo del prezzo dei carburanti che si prevede potrà impattare proprio sul settore auto e in generale sul settore industriale, quindi i titoli più ciclici oggi sono stati i peggiori del listino. E infatti tu, citavamo Tenaris, Fiat, ma anche Buzzi Unice, Prismian, che comunque è l'ex Pirelli Cavi, Fiat Industrial, Finmeccanica nonostante da buona commessa, ancora invece la Galassia, che io chiamo così il buco nero, Fondiaria SAI, visti i debiti che lo sommergono, più che Galassia, insomma. Prego. Soprattutto oggi sotto il riflettore è finita Premafin, quindi diciamo la piani alti della catena, è salita del 7,87% nel giorno in cui sono stati presentato il piano, è stato a Palladio che è alternativo a quello di Unipol e all'indomani dell'approvazione degli aumenti di capitale di Fondiaria SAI e della stessa Unipol. Unipol che tra l'altro ha rilanciato la propria offerta annunciando che è disposta a investire 75 milioni in più proprio in Premafin, quindi diciamo che oggi il titolo ha beneficiato di questa battaglia per il controllo, per acquisire il controllo del gruppo in generale della Galassia Assicurativa che ha votato una Fondiaria SAI ed è stato tra i migliori dell'intero listino milanese. Allora, lo spread forse non l'abbiamo dato in apertura, avete ragione, chiedo scusa, 286 punti, l'ultimo livello leggermente in rialzo, ma comunque ampiamente sotto i 300 punti. Visto che parlavamo di Premafin e della galassia di Salvatore Ligresti, c'è una notizia che mi fa impazzire. Tra l'altro non abbiamo fatto oggi l'approfondimento su cos'è questa crisi. Allora riprendiamo lo stacchetto di De Angelis Pretolini. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. No, mi fa impazzire la notizia che Salvatore Ligresti, che pure è tuttora al controllo della sua galassia, si è fatto pagare tra il 2003 e il 2010 dalla Fondiaria Sai e dalla Milano Assicurazione, di cui è azionista di maggioranza, 40 milioni di euro a titolo di compenso per attività di consulenza prestate alla società. Ora, che l'azionista di maggioranza faccia il consulente per la società che controlla, e si faccia pure pagare 40 milioni, è una cosa incredibile. Le consulenze ufficialmente riguardano varie operazioni immobiliari, capirai, visti i risultati. Comunque, sono state assegnate a Ligresti dall'ex amministratore legato di Fondiaria Sai, Fausto Marchionni. Cioè, Marchionni assegna all'azionista di riferimento delle consulenze. Adesso io non so la governance. Senza interpellare il consiglio di amministrazione e senza neppure attivare le procedure previste per operazioni con parti correlate. Unipol, che sta organizzando un piano di salvataggio, ha già preannunciato che se l'operazione andrà in porto non ci saranno, questa è bellissima, azioni legali contro gli ex vertici dell'azienda. Ma che buoni che sono a Unipol. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Vabbè, altri titoli per concludere. Prelios più 11,30 e Premafin finanziaria, abbiamo detto. Best Union Company più 7,60. Gli altri titoli in peggio: Vita meno 9,40, Credito Artigiano meno 6,30, Investimento Sviluppo meno 5,70%. Una notizia invece la do e poi nel salutare Paolo Paronetto lascio la linea al traffico. Se praticamente uno avesse comprato Apple invece di acquistare il primo iPod messo in vendita nel 2001, si fosse comprato direttamente il titolo, pensate che se avesse investito $399 nel 2001, adesso avrebbe $26,000, cioè averne investiti 800 avrebbe avuto $50,000, altro che l'iPod. Complimenti all'Apple per l'andamento in borsa. Traffico e poi parliamo del disegno di legge fiscale in attesa di capire come va la trattativa sul mercato del lavoro. Focus Economia. Allora, ultima parte di Focus Economia. Venerdì prossimo il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare il disegno di legge sulla delega alla riforma del sistema fiscale, con parecchie novità che sono emerse ieri in commissione. Ringrazio allora la senatrice del PD Anna Rita Fioroni. Buonasera, senatrice. Sì, buonasera. Lei è tra l'altro l'autrice di quella modifica che ha fatto infuriare i vertici delle banche italiane. Si è autosospeso e congelato il presidente Mussari, quella che prevede di eliminare le commissioni per gli affidamenti bancari, ma con lei parliamo di altro. E grazie anche a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Buonasera. Gianni, sintetizzaci le novità emerse ieri dalla commissione, quindi il testo che arriverà venerdì in consiglio. Sì, allora, il testo che arriverà venerdì in Consiglio dei Ministri dovrebbe sostanzialmente riscrivere la delega, cioè l'incarico al governo per riformare il sistema fiscale. Allora, cambiano le imposte sulle imprese, anzi sui diciamo titolari attuali di redditi d'impresa, nel senso che con questa nuova imposta dovrebbero essere sottoposti e entrare, diciamo, nell'ambito IRPEF i redditi che fino a ieri erano i redditi, diciamo, personali, che però fino a oggi, anzi, sono tassati con l'IRES, quindi non più aliquota secca ma aliquota progressiva come l'IRPEF. Il governo viene poi incaricato di riformare il catasto, cercando di avvicinare i valori fiscali dei vari immobili a quelli effettivi di mercato, però con una clausola che impone o dovrebbe imporre di non aumentare la pressione fiscale collettiva. Quindi ci sarà chi ci guadagna e chi ci perde. Rispunta il fondo, allora ci sono una serie di novità sulla di indirizzi, diciamo così, sulla lotta all'evasione, i cui frutti dovrebbero alimentare quel fondo che era stato previsto, era stato introdotto in una prima versione del decreto fiscale, ma poi era sparito, cioè il fondo che abbassa le tasse, finanziando questo abbassamento di tasse con i proventi della lotta alla evasione. Beh, è un'operazione fondamentale, perché tu riuscirai a far passare anche culturalmente il messaggio che la lotta all'evasione serve a tutti, se poi hai un fondo che concretamente, non di facciata, va ad abbassare il cuneo fiscale in primo luogo, cioè tasse sul lavoro dipendente e anche i costi, se vogliamo, per le imprese. Esattamente, e questa riscrittura della delega fiscale, oltre appunto a portare queste novità, supera e quindi rende, diciamo, non più presenti sul tavolo alcune previsioni della vecchia delega fiscale prevista da Tremonti. Le tre aliquote IRPEF 20, 30 e 40 non ci sono più. E poi anche tutto quella spada di Damocle che pendeva su una serie di agevolazioni fiscali ora viene molto ridotta, perché le agevolazioni fiscali che potrebbero, come dire, essere ritoccate, riviste, strette dal nuovo procedimento di riforma sono molto più limitate, quindi sicuramente al sicuro le classiche detrazioni, diciamo, di cui quasi tutti fanno. Allora, sono sparite invece le tre aliquote di 20-30-40% previste dal governo Berlusconi, ma mai entrate in vigore. L'IRES, che viene sostituita da l'IRI, l'hai già spiegata tu. Il catasto è fondamentale, anche perché poi partirà l'IMU sulla prima e sulla seconda casa, e abbiamo spiegato più volte con te che il rischio è di creare disuguaglianze profonde tra case considerate di pregio perché e case considerate non di pregio, anche se lo sono diventate nel frattempo, perché il catasto non è aggiornato. Ecco, il problema è che l'IMU parte subito, nel senso certo, si paga il catasto già dopo. Catasto dopo, nel senso che per fare questo allineamento ai valori di mercato c'è da fare un'operazione estremamente complessa. Prima di tutto si abbandona il vano catastale, che non esiste in natura, per cui quindi sono anche i metri il fisco quadri. Lo farà in metri. C'è da riclassificare tutti gli immobili, sì. E la stessa relazione che accompagna la delega dice che ci vorrà qualche anno. E intanto però l'IMU la paghiamo subito col vecchio catasto. Da subito. Senatrice Fioroni, mi dica una cosa rapidissima. Ci sono novità sul suo emendamento, quello che ha fatto influire le banche, cioè levare le commissioni per l'affidamento, o no? Sì o no? Al momento io non ho novità. Quindi resta? No, è da vedere, perché se ne sta discutendo tra le forze politiche rappresentate in questo momento alla Camera. Si parla di un ordine del giorno che dovrebbe indirizzare il governo verso la modifica, però ancora non l'ho visto, non so se sia stato presentato, leggo dalle agenzie stampa. Ma lei si batterà per il mantenimento, immagino? Beh, guardi, questo emendamento è nato per risolvere un problema di fondo, che è quello del rapporto tra banche, imprese e consumatori, sì, in particolar modo appunto il costo delle commissioni bancarie. Ora, se c'è da valutarne una modifica, lo si deve fare sempre comunque tenendo conto di quella che è la tutela del contraente più debole. Ma non è più convinta nemmeno lei, non ho capito? No, assolutamente convinta, però se le forze politiche decidono di modificarlo, che comunque sia ben chiaro che deve essere Mi sembra convinta, ma rassegnata al fatto che lo modificheranno. Mi dica invece cosa avete fatto ieri in commissione, proprio sul disegno di legge fiscale, perché voi col PDL e con la Lega avete preso un insieme di emendamenti, in questo caso in maniera bipartisan avete eliminato la norma sulla cosiddetta blacklist, ossia l'ipotesi che i commercianti che non danno lo scontrino e vengono beccati finiscano in una lista nera su cui poi opera l'Agenzia delle Entrate e va allora a fargli i controlli. Perché l'avete eliminata? Allora, innanzitutto noi, e io in particolar modo, che ho presentato questo emendamento, condivido in pieno le misure di rafforzamento al contrasto all'evasione fiscale, anche per i motivi che si sono detti. Se la delega fiscale contiene un rafforzamento del fondo per poi andare a ridurre la pressione fiscale, il cuneo fiscale, i costi per le imprese, non è che positivo, e è comunque un orientamento condivisibile. Questa misura in particolare pone dei problemi applicativi, quindi io volevo soltanto presentare all'attenzione della Commissione le problematiche applicative di questa norma. Tenga conto che l'Agenzia delle Entrate può pianificare i suoi accertamenti sulla base di segnalazioni che vengono fatte da un qualsiasi cliente. Si poteva tenere. No, aspetti, le spiego qual è il problema. Abbiamo due minuti, nascere. Prego. Le spiego il problema che potrebbe nascere. Un cliente che ha qualcosa da dire con un barista fa una telefonata e segnala la mancata emissione dello scontrino. Un concorrente mi che scusi, si trova ma sulla non è stessa che può strada fa una telefonata e segnala questa cosa. Sì, ho capito, ma poi è l'operatività della norma che dobbiamo ben verificare che non crei dei paradossi, ma che sia sempre comunque. Senatrice, però scusi, se io chiamo e dico che Gianni Trovati chiama un bar malato allo scontrino e lui poi dimostra che lo scontrino l'ha regolarmente emesso, io verrò calunniato. Cioè, vengo accusato di calunnia, ma non vedo. Però mi dicono. Viene fatta la prova di questa cosa perché. No, ma io. Semplicemente segnalazione non anonima. Sì, al momento esiste una norma. Ma guardi, io semplicemente per mettere in evidenza quali possono essere le criticità. No, ho capito, però vorrei una risposta anche all'ultimo. Voi vi siete anche impegnati a bloccare il divieto di trasferimento del denaro contante sopra i 1000 euro. Quando si tratta dell'acquisto di beni e servizi legati al turismo da parte di persone fisiche e straniere fino a un massimo di 15.000 euro. Perché? In una battuta, non ho capito. No, questo è già previsto nel decreto. C'è l'articolo 3 che prevede proprio questo, proprio per facilitare la vita delle imprese che operano nel settore del turismo, prevede espressamente che questa deroga viene fatta, e quindi lo prevede il decreto, come ci è arrivato dalla Camera, che prevede che questa deroga viene fatta per facilitare la vita delle imprese che operano nel settore del turismo, perché uno straniero che viene da fuori magari ha difficoltà nel sostenere questa norma, quindi di fare pagamenti con il contante al di sopra di 1000 euro con forme che non siano contanti. Allora, adesso leggo una cosa sull'uso del contante, però senatrice, la riavremo ospite perché io sulla la lista diciamo di chi non emette lo scontrino non mi ha convinto. Già ne trovate una battuta perché sono fuori di tempo massimo? Sì, il PD come partito si è un po' dissociato. Si è un po' dissociato, comunque al di là del PD o del PDL, il problema è che insomma se uno non emette uno scontrino e viene segnalato è giusto che l'Agenzia delle Entrate intervenga. Non ho capito quale sia il problema sempre in Italia. E invece sul contante i 4/5 delle banconote da 500 euro presenti nel nostro paese circolano, i 4/5 circolano in tre aree ben definite, ossia i comuni a ridosso del confine con la Svizzera, la provincia di Forlì dove c'è San Marino e il Triveneto. Complimenti anche al Triveneto. Pensate che l'utilizzo di contanti in Italia non solo è superiore alla media europea ma di 30 punti, cioè in Francia è sul 60%, in Gran Bretagna 65%, noi 91%, ma è cresciuto da quando c'è la crisi. Nel 2002 circolavano 8 miliardi di banconote per un valore di 358 miliardi, nel 2011 siamo arrivati a un valore di 870 miliardi, sempre più contanti. Forse perché uno piace vederli o forse perché c'è anche un po' di nero in questo paese. Grazie a Gianni Trovati, grazie anche alla senatrice del PD Anna Rita Fioroni, a cui va il merito di aver proposto quell'emendamento sulle banche. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni, le auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.